Lettere a Radio 24, a cura del direttore, con la collaborazione di Luca Cremonese. Cara Radio 24, ogni giorno mi convinco sempre di più che la nostra sia una repubblica fondata sull'ipocrisia, in tutti i campi, sia dal caso della povera Eluana fino all'ultima trovata del neoeletto Franceschini, che propone un assegno per chi perde il lavoro, anziché politiche intese a creare nuove occasioni di lavoro. Come fa a pensare che uno Stato possa reggersi solo sull'assistenzialismo? Se queste sono le sue competenze in campo economico, non rimane che sperare in una sua rapida decadenza. È meglio che si occupi di favole. Forse qualche strega gli ha insegnato che esiste la bacchetta magica dalla quale far scaturire le risorse, che di solito provengono dalla leva fiscale, che con il calo dei lavoratori attivi e la chiusura delle ditte, mi sembra sia destinata a diminuire più che ad aumentare. Che desolazione. Silvana. Dario Franceschini ha lanciato una proposta a parer mio umana che riuscirebbe a salvare tante famiglie dalla fame e dalla perdita di dignità, arginando i pericoli che potrebbero derivare da un popolo messo alle strette e allo stesso tempo darebbe un forte credito a tutta la classe politica, cosa che per la casta è di primaria importanza. Parlo dell'assegno di disoccupazione, al quale Berlusconi ha detto un secco no, perché il trattato di Maastricht non lo permetterebbe e perché costerebbe un punto e mezzo di PIL, cosa insostenibile. Ma Silvio avrebbe potuto pensare al recupero dell'evasione oppure interloquire con la Chiesa per avere qualche pezzo dei tesori del Vaticano. Infine, una piccola autotassazione della casta farebbe da ciliegina sulla torta. E non è sarcasmo. Rudy. Io sono un lavoratore italiano all'estero, in Svizzera, ormai naturalizzato nel Canton Ticino. Ebbene, sono anni che mi andavo chiedendo perché nessuna organizzazione sindacale, né partito della sinistra, avesse mai posto il problema del superamento della indennità di mancato guadagno dovuta alla perdita del posto di lavoro, per qualsiasi motivo esso sia dovuto. Come? Magari semplicemente guardando come viene affrontato in altre parti, anche vicine all'Italia, per esempio in Svizzera. Qui la cosa funziona molto semplicemente. Esiste un prelievo a titolo di ID, indennità di disoccupazione, dell'1% sul salario degli occupati, pagato metà dal lavoratore e metà dall'azienda. In caso di perdita di lavoro, il lavoratore percepisce per i primi 12 mesi l'80% della sua ultima retribuzione. Se non trova occupazione oltre quel periodo, la percentuale diminuisce e intervengono altri mezzi, come l'offerta di un lavoro analogo o anche lontano da quello originario, la formazione, eccetera, da parte dell'istituto stesso che gestisce l'ID. Punto. Questo vale per tutti, dal dipendente di una grande azienda a quello di un artigiano. In Italia, ad oggi, solo i fortunati della grande industria possono avere accesso, tramite la cassa integrazione, a una forma di sicurezza sociale. Per gli altri, nada de nada. Introdurre questo concetto risolverebbe anche uno dei problemi del grande utilizzo dei contratti atipici. Infatti le aziende sarebbero meno incentivate a utilizzare quei tipi di contratto per motivi di flessibilità. Si veda che un contratto atipico è in genere a termine e comunque disdettabile con un minimo preavviso. Ora, cosa fa Franceschini a fianco di una buona proposta? La ridicolizza e la brucia, indicando come fonte di finanziamento, reggetevi forte, il recupero dall'evasione fiscale. Ma dico, possibile che non ci sia proprio nessuno in grado di fare un giro di telefonate ad amici all'estero o di navigare su internet per chiedere come si fa altrove? Alberto, Lugano. A proposito del suicidio del gioielliere di Roma, passato dall'accusa di eccesso di legittima difesa a quella di duplice omicidio volontario, solidarietà alla famiglia. È un pensiero per quel povero uomo che si è trovato, suo malgrado, a difendere se stesso e la sua professione dalla violenza di due delinquenti e scampato a quella, a diventare vittima di una giustizia che, a mio avviso, di giusto non ha quasi più nulla. Bando da me i pensieri di diventare tutti sceriffi e giustizieri in proprio dei torti subiti. Però definiamo una volta per tutte cosa vuole dire avere diritto a difendersi e cosa vuol dire invece passare per assassini all'occhio del magistratucolo di turno e alla discrezionalità degli stessi, di cui ho avuto molteplici esempi diretti. Ricordo quando, alcuni anni or sono, ricorrendo al giudice di pace di Reggio Emilia, per un errore formale in un verbale di contravvenzione, mi trovavo davanti a un giudice onorario aggiunto, Questo giudice onorario ha confermato tutti i verbali che il suo collega nella stanza a fianco aveva annullato per lo stesso motivo per cui avevo presentato ricorso io. Certo, tutto questo è meno grave, ma quale giustizia è possibile quando l'ambito della discrezionalità del giudice è così ampio, anche in materie tanto banali? Massimo. La casta peggiore in Italia è quella costituita da giudici e magistrati. Quando sbagliano paghiamo noi e fior di milioni, a volte anche con la vita. Loro invece non pagano mai. Lettera firmata. Negli Stati Uniti, per fermare una persona ritenuta pericolosa come Al Capone, hanno dovuto ricorrere all'evasione fiscale. In Italia, invece, dobbiamo fare una legge per obbligare i giudici a tenere dentro i delinquenti. Alessandro. Caro direttore, mi auguro che il giudice onorario di Bologna, Mariangela Gentile, che ha ricevuto l'incartamento sul rumeno stupratore della 14enne romana, avesse letto le 9 denunce a carico del rumeno per furto, molestie sessuali, spaccio, oltre alla raccomandazione del prefetto di Roma per una sua immediata espulsione. In ogni caso, non ha ritenuto ci fossero elementi sufficienti per espellerlo. Lo stesso dicasi per il giudice che non ha ritenuto fosse da incarcerare l'individuo che aveva stuprato una bimba di 6 anni. E questo animale ha poi picchiato e stuprato a Napoli un ragazzino 12enne. Tempo fa Berlusconi aveva proposto un'indagine psicologica su tutti coloro che intendevano iniziare la carriera di magistrato. Fu attaccato da tantissimi, ma francamente mi chiedo fino a che punto avesse torto. In ogni caso, questi comportamenti possono essere capiti, anche se non giustificati, pensando al carattere individualista ad oltranza di noi italiani, incapaci di sentirci parte di una comunità e di conseguenza disinteressati alla sua tutela e difesa. Edoardo. Gentile direttore, Tacito è stato un tizio romano che mi ha fatto dannare da studentessa, ma da adulta mi ha mostrato la via. Ricordo che secondo lui, più uno Stato è corrotto, più moltiplica le sue leggi. Cornelio Tacito aveva la palla di vetro? No, ragionava. Faccio qualche esempio. 1. La Francia e la Germania sono sotto le 9.000 leggi. L'Italia ne ha oltre 130.000. Orbene, si è proposto di eliminare quelle inutili e superate, che servono solo ai legulei per procrastinare un esito. L'addetto all'opera Pia è Calderoli, che viene dileggiato su Rai 1 con l'espressione «Gli altri sono lì a far le leggi e lui a disfarle». Diranno che era una spiritosaggine, ma è un sense of humor che fa poco ridere chi ha a cuore il funzionamento della giustizia. 2. Risultati del progetto PISA e dell'OCSE. Un disastro. I nostri allievi sono asini. Badi, non sono stupidi. Non lavorano, non sono assidui, non leggono. I genitori li assolvono per qualsiasi cosa. Il bambino non deve affaticarsi. Certo, c'è differenza tra le varie regioni, ma meglio non dirlo, perché altrimenti ti danno del razzista. I risultati del primo quadrimestre? Una debacle. Novità? No, ovvietà. Dalla vergogna per l'esposizione internazionale dei risultati di qui sopra al pietismo per i poveri piccoli, completi di cellulari in grado di fare tutto. Forse anche l'espresso, o magari fornire una sniffatina. Bisognerà fare altre leggi, disposizioni, eccetera. 3. Mancano i soldi per la ricerca? Tristezza. Articoli dottissimi sull'argomento. Soluzione della nonna. Una sola camera. Dimezzati i parlamentari da 14.000 euro mensili, senza contare i benefit. Il malloppo ricavato servirebbe per mantenere 1.500 ricercatori, che sono meno esosi dei parlamentari e si accontenterebbero sicuramente di un terzo del loro stipendio. L'anno scorso, in questo periodo, se ne parlava in entrambi gli schieramenti. Poi si fece buio pesto e da allora si sente solo lo stridor di denti degli italiani. L'unica santa legge da fare non si fa. È ovvio perché. Ma ci sarà pur qualcuno in grado di trovare una soluzione per questa situazione vergognosa? Per ritornare a Tacito, pochissime parole, concetti chiari e razionali e comportamenti conseguenziali. Mariangela. Mio nonno sorrideva sotto i baffi quando mi raccontava questo fatto accaduto ai suoi tempi. Un ometto dal volto particolare ma simpatico attraversava di tanto in tanto i paesi della zona a cavallo di una vecchia bicicletta. Non faceva né l'ombrellaio né il moletta, non vendeva nulla e non comprava nulla. Si limitava a pedalare lungo la strada maestra dei singoli borghi con un leggero pannello di compensato, alto 1 metro e largo 1.5 metri, legato sulla schiena e recante la scritta «Cercansi problemi». I passanti e i soliti guardoni di finestra notavano il fatto, si incuriosivano, si facevano domande, ma non riuscivano a comprendere il comportamento dello strano ciclista e tantomeno il significato di quella scritta. Perciò, come capita spesso in tanti casi, piuttosto che chiedere spiegazioni al viandante messaggiante, iniziarono a dileggiarlo e a schernirlo quando passava, nonché a fare commenti sarcastici nelle case, nelle piazze e nei bar. Ma l'intrepido omino non desisteva e quando gli girava ricompariva, attraversava e se ne andava. E così per qualche tempo e senza dar fastidio a nessuno, perché la strada è di tutti. Ma la gente, che era fatta come è fatta oggi, passò dalla curiosità all'insofferenza, da qui poi all'ostilità e alla violenza, che sfociarono in frequenti insulti e sassate ai danni del pacifico ciclista. Costui, che era sì un tipo originale ma non certamente uno sciocco, rinunciò alle sue faticose pedalate e non ricomparve più. Fin qui la storiella, forse vera o forse no, del nonno. Da qui una considerazione che ho fatto molte volte in 60 anni e avallatami ier l'altro da uno sciamano d'Africa, mio ospite da 3 mesi grazie a un permesso di soggiorno. Il saggio stregone, infatti, mi ha confidato: io avere capito, uomo su 2 ruote avere ragione, perché tanti problemi essere persone a cercarli. Aug, Costante. Secondo me, la crisi materiale non esiste. Esiste un sistema per arricchire alcuni e per realizzare a scapito di molti. Sebbene le banche siano probabilmente comandate dagli stessi approfittatori, ricordiamo che sono costituite, per la maggiore, da azioni di risparmiatori. Subprime? Perché il giorno della prima ipotesi di subprime è coinciso con la denuncia del minor numero di disoccupati negli Stati Uniti? Si sa, nei paesi emergenti si produce a bassissimo costo. A quanto si importa nel proprio paese? Chi paga i costi? Ora che tutti i paesi europei e Stati Uniti sono in ginocchio, forse è arrivato il momento di produrre nei paesi emergenti per i paesi emergenti, sperando che siano pronti. E lo stesso dovrebbe avvenire in Europa e negli Stati Uniti. Stefano. In una democrazia virtuale non poteva mancare lo sciopero virtuale. Il governo non solo non aiuta i lavoratori a superare la gravissima crisi economica, ma li attacca sul terreno dei diritti. L'affondo con il DDL delega è anticostituzionale, ma soprattutto è sbagliato. Di fronte ai dati drammatici diramati dall'Istat sulla cassa integrazione e a quelli ancor più drammatici sul PIL americano, il nostro esecutivo dovrebbe prendere il toro per le corna e dare una mano ai lavoratori già in difficoltà. Invece cerca di distogliere l'attenzione ed emana un provvedimento liberticida che indebolisce il diritto di sciopero nel settore trasporti. Stiamo assistendo a un vero e proprio intervento a gamba tesa ai diritti dei lavoratori, che mira, tra le altre cose, a spaccare il sindacato. Francesco. Caro Francesco, le nuove proposte sul diritto di sciopero si possono giudicare in tanti modi, anche negativamente, certo, sotto il profilo politico e sindacale, ma solo un giudizio mi sembra fuori luogo, quello che siano anticostituzionali. Ricordiamo, la Costituzione nell'articolo 40 afferma espressamente e semplicemente che il diritto di sciopero si esercita nell'ambito delle leggi che lo regolano. Leggi che intervengano per regolare il diritto di sciopero, come quelle che dovrebbero assicurare i servizi pubblici essenziali, ci sono peraltro già, ma molto spesso hanno dimostrato di non riuscire a raggiungere l'obiettivo. Ecco allora, per esempio, la necessità di garantire che chi promuove lo sciopero abbia una vera rappresentanza dei lavoratori. E il concetto di rappresentanza rispetto agli iscritti è peraltro ricordato espressamente all'articolo 39, proprio della Costituzione. Una Costituzione che è troppo importante per essere spesso invocata anche a sproposito. Queste erano alcune delle lettere selezionate tra quelle che ci avete inviato all'indirizzo lettere@radio24.it. Il prossimo appuntamento con le vostre lettere a Radio 24 è oggi pomeriggio alle 18:30. Continuate a scriverci.